Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia da Simone Spezia. 349-238-6666, come sempre, il numero di sms per intervenire in diretta. Di cosa parleremo oggi? Parleremo di questa indagine aperta dalla Commissione Europea con l'ipotesi di aiuti di Stato per una serie di aziende. Si tratta di Apple, di Fiat, ma anche Starbucks. Qual è il punto? Secondo quel che ritiene la Commissione Europea, queste aziende avrebbero concordato direttamente con gli stati, direttamente con le amministrazioni fiscali, dei regimi di tassazione di favore a patto di venire ad investire appunto in quei luoghi. I paesi coinvolti in questa vicenda, se ne è parlato moltissimo, soprattutto dell'Irlanda naturalmente, ma c'è anche il Lussemburgo e c'è anche l'Olanda, che sono i paesi coinvolti in questa vicenda. È una questione, come sapete, della quale si è parlato tantissimo, della quale si è discusso, se ne è discusso anche negli Stati Uniti, della possibile elusione fiscale, per così dire, per quanto legale da parte per esempio proprio di Apple e di altri colossi americani come Google. Ebbene, la Commissione Europea da questo punto di vista decide di provare a intervenire, quantomeno ad indagare e a cercare di capire che cosa effettivamente è successo, se si tratti appunto di aiuti di Stato oppure per esempio di una sana concorrenza fiscale tra stati per attrarre capitali, cosa che anche è plausibilissima. Questo da un lato. Poi ci occuperemo di bollette e di energia. Ci sono una serie di elementi da tenere sott'occhio. Innanzitutto il fatto che, come ha comunicato ieri l'autorità per l'energia elettrica e per il gas, dal 1 ottobre, ossia da domani, scattano gli aumenti per bollette di luce e gas, più 1,7% per quanto riguarda l'elettricità, più 5,4% per quanto riguarda il gas, il tutto con sullo sfondo ovviamente la crisi ucraina, la possibilità che se non si interrompano le forniture comunque rallentino parecchio. Ne parleremo con uno dei componenti dell'autorità appunto per l'energia elettrica ed il gas. Ci occuperemo di mercati, naturalmente c'è un'accelerazione negli ultimi minuti per quanto riguarda soprattutto le borse europee. Milano guadagna l'1,72% sul FTSE MIB e l'1,6% sul FTSE All Share, Parigi l'1,6%, Francoforte lo 0,63%, Londra invece in calo dello 0,35% e l'America guadagna, anche se non molto, più 0,31% sul Dow Jones, più 0,27% sullo Standard & Poor's 500. Come mai questo balzo delle borse europee? Vi daremo tra poco i dati che riguardano l'economia europea e anche l'economia italiana. Ci sono segnali abbastanza nitidi, se non di deflazione, comunque di un'inflazione in netto rallentamento, quantomeno per quanto riguarda l'Eurozona. L'Italia è in deflazione conclamata e questo fa ipotizzare ai mercati, e lo dimostra anche l'andamento dell'euro che oggi è arrivato a scendere sotto 1,26, che la Banca Centrale Europea possa usare, per così dire, armi non convenzionali finalmente, come tutti aspettano e probabilmente i mercati sperano, e l'andamento degli stessi mercati lo dimostra. Ovviamente parleremo anche di riforma del mercato del lavoro e di quello che sembra essere un accordo proposto da Matteo Renzi al resto del Partito Democratico ieri nel corso della direzione. C'è qualcuno che è stata la persona che si è occupata di fatto della precedente riforma del lavoro e della precedente riforma dell'articolo 18, Elsa Fornero, che dice: guardate che rispetto a quello che ha detto Renzi, rispetto a quello che ho fatto io, non cambia assolutamente nulla. Ospiteremo proprio Elsa Fornero e poi il vice direttore del Sole 24 Ore, Fabrizio Forché, perché il tema naturalmente resta al centro dell'agenda politica, non solamente, ma anche dell'agenda economica. Forse, se vogliamo, anche in maniera un po' esagerata e politicamente orientata, per così dire, perché poi in realtà la riforma del mercato del lavoro comprende tantissime cose che sarebbero da analizzare anche loro per dare un giudizio definitivo. Comunque, tant'è. 349-238-6666 per i vostri sms, le notizie in breve di oggi. Abbiamo l'oro in calo dell'1% a 1208 dollari l'oncia e il petrolio giù dello 0,4 a 92,4 dollari al barile. A proposito del gas, si diceva prima, e delle questioni che riguardano l'Ucraina e i nostri rapporti, i rapporti dell'Unione Europea con la Russia, c'è l'intervento del Ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, in aula al Senato, che dice che la situazione energetica internazionale con la crisi russo-ucraina è molto complessa, e fin qua siamo perfettamente d'accordo, ma il sistema di approvvigionamento dell'Italia ha sufficiente capacità nel caso di interruzione del flusso dalla Russia fino anche a 3 mesi. Però aggiunge, non ci possiamo nascondere che eventuali interruzioni potrebbero avere conseguenze sui prezzi. E questo visto che siamo sulle materie prime. Per quanto riguarda l'economia internazionale, forse il primo dato da segnalare è quello che arriva dagli Stati Uniti, dove la fiducia ai consumatori è scesa ancora una volta, 86 punti in settembre, più che ancora una volta, ampiamente al di sotto delle attese degli analisti, che si attendevano sì un ribasso, ma a 92,5 punti. Questo ha avuto anche un impatto naturalmente sulla borsa americana, anche se, come avete sentito, piuttosto limitato. Quando vi abbiamo dato i mercati, non vi abbiamo riferito di come è andata la borsa di Hong Kong, meno 1,3%, su questo pesa naturalmente la crisi politica che vi stiamo raccontando ampiamente anche all'interno dei giornali radio. Il capo del governo di Hong Kong ha chiesto la fine immediata delle proteste, Pechino ha annunciato il suo sostegno contro le manifestazioni, fatto sta che la tensione politica è elevata, e quando la tensione politica è elevata ne risentono ovviamente anche i mercati. Si tratta, come sapete, come vi abbiamo raccontato, di una protesta con migliaia di persone per le strade che chiedono che le elezioni che ci saranno nel 2017 non subiscano l'influenza della stessa Cina. Ci sono le vicende che riguardano l'Argentina, la questione dei bond. Un giudice americano, Thomas Grisa, ha condannato l'Argentina per oltraggio alla corte. Perché ha disobbedito agli ordini del giudice cercando di pagare solo alcuni dei suoi creditori e non tutti, come stabilito dal tribunale. La stessa Argentina ha sfidato gli Stati Uniti, ha depositato 200 milioni di dollari in un nuovo fondo per il pagamento dei creditori che hanno accettato il concambio sul debito. Il Fondo Monetario Internazionale torna ad intervenire, dice: 5 anni dopo la crisi finanziaria la ripresa globale continua ma resta debole, in diverse economie avanzate ci sono ancora sostanziali debolezze economiche e l'inflazione resta troppo bassa nell'area euro. Così il Fondo Monetario nel suo World Economic Outlook, quello che di solito ci fornisce delle previsioni che, ahimè, per il Fondo Monetario Internazionale si rivelano regolarmente sbagliate. Comunque l'analisi c'è, a prescindere da tutto. Dice il Fondo Monetario che gli squilibri globali sono in calo, ma restano preoccupazioni, e qua sembra proprio parlare con i tedeschi, perché dice: è il momento giusto per spingere sulle infrastrutture, investire, insomma. Perché gli investimenti infrastrutturali spingono l'attività economica e creano lavoro. precisamente keynesiani, un aumento di un punto percentuale di PIL della spesa per gli investimenti aumenta i livelli di produzione dello 0,4% nello stesso anno e dell'1,5% in 4 anni, dice il fondo. E tra l'altro dalla Germania, chiamata in causa anche se non direttamente, continuano ad arrivare segnali non particolarmente positivi. Aumenta il numero di disoccupati, l'Agenzia Federale del Lavoro segnala più 12.000, per un totale di quasi 3 milioni di unità, 2.918.000 unità. Gli economisti puntavano su un calo. Il tasso di disoccupazione resta invariato. Questo è un elemento importante, attenzione, per i fedelissimi di Focus Economia. I reduci che ci hanno ascoltato anche in agosto ricorderanno che di questo avevamo parlato con Attilio Geroni, capo della redazione esteri del Sole 24 Ore, però a lungo corrispondente da Francoforte per il Sole 24 Ore, che ci diceva: guardate, io non credo che i tedeschi cambieranno linea finché non vedranno gli effetti sull'occupazione. E gli effetti sull'occupazione di un rallentamento dell'economia purtroppo tendono a vedersi a qualche mese di distanza. Qualcosina si vede adesso, ma ancora poco oggettivamente. Insomma, la disoccupazione è del 6,7%. Rispetto alla nostra, poi, che è doppia, come ci confermano i dati Istat di oggi, con una disoccupazione giovanile al 44,2%, la terza peggiore dopo Spagna al 53,7% e Grecia al 51,5%. Comunque disoccupazione generale in calo, perché siamo a un 12,3%, non è moltissimo, però è una diminuzione di 0,3 punti percentuali in termini congiunturali e di 0,1 nell'arco dell'anno. Poi ci sono i dati sull'inflazione, o meglio sulla deflazione. Inflazione bassissima per l'Europa, più 0,3% a settembre, meno 0,1% secondo la stima flash dell'Istat per quanto riguarda l'Italia. Scesa l'inflazione dello 0,1 rispetto al 2013 e dello 0,3% rispetto ad agosto 2014, ossia rispetto al mese scorso. Ultimo giro per quanto riguarda i dati sulla produzione industriale di settembre, che sono le previsioni del Centro Studi di Confindustria, che essendo quello che è, lavorando in quel modo di solito ci azzecca. Meno 0,2% su agosto e meno 0,4% su settembre 2013, al netto del diverso numero di giornate lavorative. Queste le previsioni del Centro Studi di Confindustria. Nel terzo trimestre 2014 risulta un calo della produzione di 0,5 punto percentuale sul secondo. Infine le parole del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che dice che il credito all'economia continua a contrarsi in più paesi, tra cui l'Italia, e aggiunge che è importante che il finanziamento alle imprese provenga in misura crescente dai mercati dei capitali per tenere il sistema meno dipendente dal credito bancario. E veniamo al primo tema di questa giornata, ossia a tutti questi tutti questi tentativi, poi riusciti in realtà, di una serie di aziende, di una serie di multinazionali, di ottenere con i singoli stati europei condizioni di favore dal punto di vista fiscale. Cose che vengono valutate a seconda della prospettiva politica dalle quali si guardano, come elusione fiscale addirittura in certi casi, alcuni la considerano tale. E dalla Commissione europea, non ancora in realtà, sta indagando su questo, come possibili aiuti di Stato. Via. Allora, sono i tempi dell'indagine antitrust europea che si accorciano a quanto pare. Bruxelles aveva messo già in giugno scorso sotto la lente il regime fiscale favorevole che Irlanda e Lussemburgo avrebbero applicato rispettivamente ad Apple e Fiat Finance. Oggi la Commissione ha pubblicato la decisione dettagliata che elenca tutte le accuse e i dubbi delle autorità europee. Un'indagine che potrebbe costare alle aziende coinvolte, il Financial Times cita Apple e dice diversi miliardi di dollari. La prossima tappa è la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle risoluzioni. Da quel momento le parti in casa hanno un mese di tempo per dare risposte alle contestazioni mosse e ai dubbi dell'antitrust, che vuole capire se e quanto le imprese hanno risparmiato in tasse grazie ad accordi o al regime speciale che i due stati hanno accordato per trattenerle e garantire di fatto degli investimenti. Saluto l'avvocato Benedetto Santa Croce, esperto in materia fiscale del Sole 24 Ore. Avvocato Santa Croce, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, qua naturalmente ci si divide moltissimo su questo tema, perché alcuni pensano che sia una legittima concorrenza fiscale tra stati europei per attrarre investimenti e quindi di fatto queste aziende cosa fanno? Semplicemente si accordano con lo Stato, dicono io metto là la mia produzione oppure la mia sede legale o quello che volete voi, in cambio voi mi offrite una forma di tassazione a me favorevole che fa sì appunto che io investa nel vostro paese, una forma di scambio che con la Svizzera, avvocato Santa Croce, abbiamo visto spesso e abbiamo raccontato spesso in questi mesi, no? Sì, sicuramente è un metodo utilizzato a più riprese da alcuni stati, tenendo conto che però con questo la Svizzera è comunque un paese terzo rispetto all'Europa. Il problema si pone quando questi vantaggi fiscali vengono accordati da paesi dell'Unione Europea, e il Lussemburgo e l'Olanda sono sicuramente paesi dell'Unione Europea, quando gli stessi paesi comunque hanno sottoscritto nel tempo una serie di impegni a livello comunitario per eliminare dei regimi fiscali favorevoli o comunque concorrenziali. Quindi la concorrenza fiscale in generale è possibile nel momento in cui evidentemente però non determina una distorsione del mercato interno e quindi non determina in qualche modo un vantaggio che è selettivo per un'impresa che a fronte appunto del trasferimento di tutte le attività in quel determinato paese ottenga una tassazione dal punto di vista multinazionale più bassa di quella che avrebbe ottenuto. Questo è un punto interessante, avvocato, però si potrebbe controbattere dall'altro lato che aziende di dimensioni speciali magari hanno bisogno di benefici speciali anche per le loro caratteristiche. Penso al fatto che appunto magari, e questo se ne è discusso molto soprattutto dal lato degli Stati Uniti, no? Quando si è iniziato a ragionare sui regimi fiscali di favore di Google e della stessa Apple, come dire, quando queste aziende poi producono innovazione e creano posti di lavoro che magari non avrebbero creato se non avessero avuto quel regime fiscale di favore. Sì, però questo mi sta benissimo come attribuzione di alcuni benefici determinati appunto da una miscellanea di vantaggi di natura fiscale, di natura contributiva, di varia natura, che però debbano rimanere poi in qualche modo, tra virgolette, da una parte collegate con le regole internazionali e dall'altra che non determinino appunto una distorsione di mercato, perché comunque la distorsione di mercato è un qualcosa che non può essere accettata. Ora nel caso di specie, no? Se andiamo a vedere il caso di specie, il caso di specie si tratta in particolar modo del fatto che questi due gruppi, in particolar modo quello di Fiat per esempio, ha fissato il servizio di coordinamento di tesoreria e dei finanziamenti tutti in Lussemburgo. Questo in particolar modo per andare a vedere la tassazione di remunerazione dei capitali che venivano utilizzati. Allora, in quel caso, nel caso di specie, il problema che si pone è che applicando i criteri, diciamo, ordinari previsti anche a livello OCSE sul prezzo di trasferimento, evidentemente si sarebbe raggiunto un determinato risultato. Il risultato che è stato determinato, evidentemente, andando a stabilire innanzitutto una base imponibile fissa per un patrimonio, cioè per un finanziamento che è di 2.542 milioni di euro, quindi un flottante enorme nel capitale proprio, la remunerazione di questo capitale, evidentemente, se segue le regole internazionali, mi sta bene che lui abbia poi una tassazione ripartita a livello di base che lo favorisca in ragione di una condizione di libera concorrenza. Il problema di fondo è che quando questa situazione produce una situazione che è completamente antitetica rispetto alle regole economiche o comunque non rispetta quelle regole internazionali, allora determina un vantaggio non propriamente adeguato, no? Sì, non fair, così dire. Senta, non corretto, quindi non giusto, ma insomma, fair, visto che tutti si occupano di calcio, fair play sapete che cosa vuol dire, quindi fair lo sapete tutti. Chiedo scusa per l'uso del termine inglese. Avvocato Santa Croce, cosa rischiano queste aziende e soprattutto se rischiano qualcosa gli stati? Allora, intanto la misura è contro lo Stato. Partiamo da questo concetto, perché sostanzialmente viene in qualche modo definito che il vantaggio fiscale, perché qui si tratta di un accordo che è stabilito dal 2012 al 2016, quindi evidentemente con un'ampiezza piuttosto elevata, dove è evidente lo Stato lussemburghese ha accordato quel particolare regime avendo preso, diciamo, informazioni da parte della società, quindi è la società che ha fatto una comunicato tutti gli elementi e il Lussemburgo ha detto che andava bene. Quindi il primo punto è che il primo soggetto che è responsabile dell'aiuto di Stato e che è imputabile all'aiuto di Stato è sicuramente lo Stato, quindi in questo caso Lussemburgo e Olanda. È chiaro che Lussemburgo e Olanda possono a questo punto non tanto modificare l'accordo precedente, perché non possono, ma evidentemente possono andare a rivedere questi accordi successivamente e sulla base della legislazione comunitaria evidentemente possono rispondere in parte nel caso in cui il loro comportamento sia da considerarsi non così fair, come diceva prima, cioè così diciamo corretto, evidentemente possono ricevere delle sanzioni. Delle sanzioni di antitrust, appunto. Sia gli stati che le aziende. Sia le stati che le aziende, tutte e due, perché gli stati nel momento in cui hanno introdotto un aiuto incompatibile evidentemente sono imputabili di questo, ma poi la normativa nazionale, la normativa comunitaria impone anche delle sanzioni antitrust nei confronti delle società. Grazie avvocato Benedetto Santa Croce, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore, che tra l'altro firma proprio un commento su queste vicende sul quotidiano di oggi. All'ascoltatore che dice che chiacchieroni gli italiani, fanno bene a non pagare queste tasse, a partire da Marchionne. Guardi, in questo caso non sono gli italiani, ne abbiamo parlato semplicemente perché c'è la Commissione Europea che su questa vicenda ha aperto una procedura e ha ritenuto di andare a fondo e di capire appunto se ci sono degli aiuti di Stato, ossia se è stata violata, per così dire, la concorrenza tra aziende dello stesso settore, insomma, all'interno dell'Unione Europea, che dovrebbe essere un mercato unico. Il concetto sostanzialmente è questo. Poi, ripeto, su questo tema se ne può discutere all'infinito. Ed eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia, 349-238-6666 per i vostri sms. Ci state scrivendo sulla vicenda di Apple e Fiat sotto indagine della Commissione Europea per sospetti aiuti di Stato da parte in particolare di Lussemburgo e Olanda per una tassazione fiscale, per un trattamento fiscale agevolato. Non male, chi ci scrive, se a loro danno la multa noi italiani dovrebbero dare un premio visto il livello di tassazione sulle imprese. Ancora qualcuno scrive: grandi Apple e Fiat fanno bene a cercare di risparmiare. ed è una nota che prendo prendo così perché è interessante. Chi mi scrive: l'Europa fa di tutto per far nascere un sentimento di fastidio, quantomeno addirittura di uscita dall'Unione. Mi scrivete all'Irlanda: ma chi glielo fa fare di rimanere qua dentro se ti multano e se la tua crescita economica è dovuta esattamente al fatto che hai tenuto una tassazione bassa? A chi ci dice invece del TFR, del tema del TFR, metà del TFR o in busta paga o comunque consegnato ai lavoratori, una delle ipotesi sulle quali sta lavorando il governo, ci verremo, toccheremo anche quel tema nella seconda parte della trasmissione. Intanto è il momento della borsa. Roberto Brasca, vicepresidente di A come A SGR, buonasera. Buonasera. Allora, ottima giornata, mi dica se interpreto male o interpreto bene, dati sull'inflazione più 0,3% in Europa, meno 0,1% in Italia, quindi deflazione conclamata, e ipotesi che la Banca Centrale Europea intervenga con i famosi strumenti non convenzionali, così? Condivido, diciamo che questa interpretazione è confermata dalla debolezza dell'euro, quindi che sta a significare una politica, che sta a testimoniare l'attesa del mercato per una politica monetaria ancora più espansiva della Banca Centrale Europea. Poi vedremo esattamente come, questo non è dato di sapere con precisione ancora. Allora, più 1,78% il FTSE MIB, più 1,64% il FTSE O'Share, Francoforte in rialzo di 0,5%, Parigi dell'1,33%, Londra che scende dello 0,2%. Per quanto riguarda l'America abbiamo un guadagno dello 0,34% sul Dow Jones e uno 0,24% sul Nasdaq, lo Standard & Poor's 500 guadagna uno 0,23%. Non sembra aver risentito particolarmente l'America del dato sulla fiducia dei consumatori, che in realtà era peggiore delle attese. Sì, all'inizio stava scendendo il mercato americano, in effetti, poi è girato, hanno aperto probabilmente dei titoli che sono stati valutati più convenienti dal mercato. I dati macroeconomici sono un po' sparsi nella loro significatività, nel senso che ci sono dei dati positivi per la crescita, dei dati negativi per la crescita. Il mercato a sua volta interpreta certe volte i dati positivi della crescita come positivi per gli utili e altre volte invece negativi, perché la politica monetaria sarà meno espansiva e viceversa. Quindi abbiamo un po' tutto il contrario di tutto. Questo perché siamo in un momento di passaggio, stiamo passando da una fase in cui i mercati reagiscono all'azione delle banche centrali, in particolare in America, sta passando da una fase in cui il mercato reagisce a una banca centrale pro crescita e quindi che allarga i cordoni della borsa, a una fase in cui saranno gli utili a dover sostenere le imprese, perché ormai la banca centrale ha fatto il suo dovere, come se dopo esserci rotti una gamba e tolto il gesso dobbiamo cominciare a camminare da soli senza usare le staffelle. Perfetto, siamo nella fase della riabilitazione, per così dire. Esattamente. Allora, tra l'altro oggi sono di poco fa, visto che parlavamo anche di inflazione e di deflazione e di dati economici e macroeconomici in particolare italiani, e di poco fa la nota dell'Istat che parla di una nuova flessione del PIL nel terzo trimestre dell'anno, probabilmente. Perché? Perché c'è l'indicatore anticipatore dell'Istat aggiornato in luglio che è in rallentamento, e ancora lo stesso Istat dice che vede il possibile il permanere dell'inflazione italiana su livelli vicino allo zero nei prossimi mesi. Tra i titoli di oggi vi segnalo naturalmente Fiat, un meno 3,41%, qua pesa tutto il discorso che abbiamo fatto fino adesso, mentre invece complessivamente, e anche qua c'è una questione che riguarda la Banca Centrale Europea, Brasca, sono positivi tutti i bancari. Sì, Mi permetto di dire che su Fiat pesa molto la revisione degli utili di Ford di ieri, pesa su tutti gli automobilistici europei e in particolare per i produttori che sono esposti con vendite sui volumi, cioè non premium, segmento sì. premium, ma segmento diciamo mass market, con vendite sui mercati emergenti, perché la revisione al ribasso del profitto della Ford, che è stato sostanziale, ha riguardato in specifico Brasile e Russia. Infatti Fiat è molto esposto in Brasile, quelle esposte in Brasile sono Fiat, Renault, Volkswagen, e in Russia è molto esposta la Renault. La Ford ha rivisto al ribasso anche l'utile previsto sull'Europa, e quindi chiaramente siamo un po' nel mezzo del guado per questi titoli, e questo senz'altro ha inciso. No, piccolo inciso, si permetta, la chiamiamo apposta perché ne capisce molto più di me. Invece sui bancari? Invece sui bancari, chiaramente quando c'è attesa, l'Europa è più indietro nel ciclo rispetto all'America, quindi mentre l'America sta uscendo dalla fase in cui la banca centrale sostiene con le stampelle l'economia, l'Europa è nella fase in cui la banca centrale mette stampelle sempre più solide, quindi ogni volta che c'è deflazione c'è una conferma della necessità di un intervento ancora più massiccio della banca centrale, quindi si restringe lo spread dei paesi periferici rispetto al titolo tedesco che fa da punto di riferimento, e quindi migliorando i mercati obbligazionari ovviamente primo settore che ne risente positivamente è quello bancario, in particolare quelli periferici come l'Italia, la Spagna. Anche in Spagna i titoli bancari sono andati molto bene oggi. Allora, per chiudere, le chiedo questo: sempre nella nota di poco fa dell'Istat si dice che continua la fase di debolezza ciclica dell'economia italiana, e questo lo sapevamo, che si accompagna al rallentamento dell'area euro. Aggiunge l'Istituto di Statistica che però il deprezzamento del cambio dell'euro verso il dollaro porterebbe ad una ripresa delle esportazioni, una fase che è attesa proseguire anche nel terzo trimestre. Anche sulla scorta di quello che abbiamo detto fino adesso, Brasca, voi ipotizzate un altro calo consistente dell'euro nei prossimi mesi, posto che anche qua le previsioni hanno sempre, no, un ampio margine di incertezza, però... Diciamo che proprio questo posizionamento diverso nelle due fasi del ciclo economico di America e Europa fa sì che mentre fino a poco tempo fa sia stato l'euro a essere forte e aiutare l'America a uscire dalla difficoltà di una lenta ripresa, oggi essendo più conclamata, più accertata dai dati economici la ripresa in America, è senz'altro l'America che deve fare da tirante per far uscire l'Europa, perché ovviamente anche l'America, pur gradendo un dollaro debole che ovviamente aiuta le esportazioni, ha comunque bisogno di partner commerciali in forma e non depressi, quindi è interesse anche dell'America avere un dollaro più forte di quello che è stato nell'ultimo anno rispetto all'euro. Detto questo, e detta appunto già la differenza di politica monetaria che si va profilando tra America ed Europa, è anche vero che abbiamo visto in 3 mesi il cambio andare da 1,35, 1,36 a 1,26. Sono variazioni molto forti per il cambio. È stata una corsa a senso unico. Sì. Se qualche risparmiatore pensa di addentrarsi in operazioni sui cambi, io lo metto in guardia, perché sui cambi è veramente la cosa più difficile. Non era alcun suggerimento all'investimento, era una valutazione. Siccome ci sentono tante persone, voglio che sappiano che questi spostamenti, poi domani viene fuori qualcosa di nuovo, e improvvisamente tutte le stime cambiano. E certo. Cosa vuol dire? Che la direzione di dollaro sì. forte, euro debole rimane, ma non è detto che i prezzi vadano sempre in linea retta, certo. cioè è una scala un po' seghettata e non una linea costante verso il basso, quindi fare molta allora, attenzione al cambio perché le cose possono cambiare anche molto rapidamente, rimane lo scenario di fondo come dice il nome medesimo esatto. il nome medesimo sì. esatto. Sarei veramente curioso di capire più dell'invettiva che cosa intende l'ascoltatore quando dice che Mario Draghi è un fallito e che in 4 anni ha distrutto l'Eurozona. Abbia pazienza, a me sembra esattamente il contrario, cioè se c'è una figura che si erge in questi 4 anni di crisi capacità di gestione della crisi medesima e anche dei rapporti con i tedeschi non sempre facili, mi sembra esattamente Mario Draghi. A proposito di previsioni economiche o di previsioni in genere, a chi mi chiede quanto fa la Roma stasera, dico che non mi lancio in previsioni economiche, figuriamoci in previsioni su qualcosa che mi coinvolge emotivamente, quindi non ne parliamo proprio. Alberto Biancardi, commissario dell'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che a volte ce ne dimentichiamo. Biancardi, buonasera. Buonasera. Allora, l'abbiamo chiamata perché ieri è stato annunciato questo aumento delle bollette, un più 1,7% per l'elettricità, e il metano subirà un rincaro del 5,4%. L'abbiamo chiesto di intervenire, anche perché è stato gradito ospite dell'Energy Summit oggi, che si sta svolgendo nella sede del Sole 24 Ore, iniziato ieri e si chiuderà domani. Tante discussioni importanti proprio sul tema dell'energia, oggi pomeriggio in particolare di quella elettrica. Incidono quali tensioni su questo aumento delle bollette? Dunque, per il gas noi abbiamo deciso qualche mese fa di cambiare il metodo di calcolo, perché abbiamo visto che, avendo collegato il nostro mercato a quello europeo, tanto valeva svincolare il prezzo ai cosiddetti take or pay, ai contratti di lungo periodo, e l'abbiamo quindi fissato sulla base dell'andamento del prezzo di mercato. Quindi cosa è successo? Che dopo 4 trimestri di riduzioni sensibili, complessivamente per diciamo ben oltre il 10%, adesso arrivando la fase invernale, dove la domanda aumenta e i prezzi tendenzialmente sul mercato spot aumentano, anche noi abbiamo dovuto riflettere questo aumento parzialmente nella bolletta, e quindi c'è stato questo aumento. Benissimo, allora così mi risponde anche l'ascoltatore che ci scrive via sms, si chiama Federico, e dice: è tutta una presa in giro, abbassano in estate quando non si usa il gas e aumentano in autunno, guardare anche gli altri anni, ma c'è un motivo preciso collegato ai prezzi, Biancardi, come ci diceva? Assolutamente, poi erano già diminuiti nel caso nell'anno scorso, anche nel periodo invernale. Se avessimo utilizzato il vecchio criterio, gli aumenti sarebbero stati più consistenti. È chiaro che è difficile far passare il messaggio al consumatore, giustamente, no? Che dice: come io pago di più, che la scelta che abbiamo adottato è ragionevole, però noi siamo convinti che questa sia la strada. Noi ormai abbiamo un mercato collegato al mercato europeo, e quindi è giusto che i mercati in qualche modo lavorino o esprimano dei prezzi. Senta, dal punto di vista delle tensioni geopolitiche, delle tensioni internazionali, mi sembra che qualche fronte di preoccupazione ci sia. Noi ci concentriamo moltissimo sulle questioni che riguardano l'Ucraina e quindi la fornitura del gas dalla Russia, ma in realtà c'è anche altro, perché come dire, la Libia non è che sta benissimo, insomma, e le tensioni politiche le raccontiamo anche all'interno dei nostri giornali radio, un paese sostanzialmente nel caos. Insomma, qualche problema c'è anche in Algeria, vorrei capire questo, se tutto questo rappresenta un fronte di preoccupazione forte o possiamo stare tranquilli per l'inverno. Allora, intanto c'è da dire che sulla questione sicurezza noi lavoriamo attivamente, ma la competenza è del governo, quindi noi partecipiamo a tutti i vari strumenti, comitati che sono gestiti in sede governativa. Direi che noi abbiamo una capacità di importazione ampia rispetto alla domanda e direi anche purtroppo causa della crisi economica, e quindi c'è spazio sui tubi. Abbiamo diversi punti in cui entra il gas, lei ha fatto riferimento, arriva da sud, da nord, arriva anche da nord, Olanda, Germania, Svizzera, e abbiamo anche una capacità di stoccaggio che è la più grande in Europa. Quindi adesso, ad oggi, possiamo dire che la situazione non è allarmante, nel senso che nonostante questi paesi siano endemicamente, diciamo così, in crisi, non ci sono problemi di approvvigionamento. È chiaro che lavoriamo attivamente, direi giorno dopo giorno, per garantire che non ci siano problemi e per trovare le misure più adeguate nel caso ce ne fossero. Grazie ad Alberto Biancardi, che è appunto un commissario dell'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. Da chiarire agli ascoltatori, a Federico che ci riscrive di nuovo, dice: poverini, sono anche dei benefattori. No, guardi, nessuno ha detto che sono dei benefattori, è che c'è una questione collegata all'andamento dei prezzi del gas e quindi le tariffe si orientano in questo modo. Poi possiamo ragionare tantissimo sulle componenti che portano il costo della nostra energia ad essere molto elevato. Su chi invece dice in realtà sono aumentati e non ci dicono che sono scesi, ma come mai non ce ne accorgiamo? In realtà sono scesi, i dati ci sono, sarà un calo piuttosto basso, 84 euro in un anno per tutto il 2014, non un granché a dire il vero. Buonasera da Simone Spezia, benvenuti alla seconda parte di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms, come sempre. Cattivissimo l'ascoltatore che dice: io sono un consulente estero e sono favorevole al TFR in busta paga perché incrementeranno le PMI che vorranno delocalizzare. Quindi gli aumenta il giro di affari. Adesso toccheremo anche questo tema, però vogliamo partire dal Jobs Act, dalla riforma del mercato del lavoro, dagli esiti di questa direzione del Partito Democratico molto attesa. Anche perché al momento il dibattito sembra che si svolga solamente all'interno del PD. Una sorta di partito paese, almeno sui temi del lavoro. Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Fabrizio e buonasera. Ciao, buonasera. Mi sottovaluti Sacconi, che si farà sentire nel prossimo. Ah sì, su quello non c'è dubbio, c'è già Brunetta tra l'altro che si è fatto sentire comunque. E saluto la professoressa Elsa Fornero, ex ministro del welfare, come sapete, docente di economia politica all'Università di Torino. Professoressa, buonasera e bentornata ai nostri microfoni. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, mi sembra di aver letto da qualche parte che lei dice: l'ipotesi che è emersa quantomeno dalle parole di ieri di Renzi, da quest'idea di mediazione che si è fatta avanti, non è molto diversa dalla riforma dell'articolo 18 che aveva fatto lei nell'esecutivo Monti. Diciamo che magari è anche prematuro esprimere dei giudizi perché non abbiamo visto una formulazione nuova dell'articolo 18, già io direi abbastanza profondamente cambiato con la riforma del 2012. Quello che ho visto ieri, almeno a me pare, un cambiamento di posizione da parte del Presidente del Consiglio. Lui ha sempre detto: manterremo l'articolo 18 soltanto per i licenziamenti discriminatori, che risponde a un principio di civiltà, e quindi vorrei dire non c'era alcun dubbio che sarebbe stato mantenuto, ma cancelleremo l'articolo 18 per quanto attiene invece al resto, e il resto, secondo la nostra formulazione, è motivo economico e motivo disciplinare. E ieri invece il Presidente ha detto: manterremo l'articolo 18 per licenziamenti di discriminazione, ma anche per quelli disciplinari. Ora, io faccio proprio fatica a capire come si possa tenere la possibilità di reintegro per il motivo disciplinare, quindi una situazione nella quale un'impresa licenzia il lavoratore passando prima attraverso la possibile conciliazione, dice: no, io voglio andare dal giudice, il giudice dice: no, questo è in realtà un motivo diverso, non c'è quel comportamento, oppure quel comportamento sulla base dei codici disciplinari avrebbe previsto una sanzione molto minore, e quindi il giudice reintegra. Rispetto a un lavoratore che invece viene licenziato per un motivo economico e viene questo motivo economico considerato manifestamente infondato, che in italiano vuol dire che ha detto una bugia grande come una casa il datore di lavoro, per esempio dicendo: non ho più questa posizione, e poi invece ne assume un altro, che è l'unico caso in cui noi abbiamo previsto che ci sia la reintegrazione per il motivo economico. In questo caso il lavoratore non ha diritto alla reintegrazione. Mi sembra strano e mi sembra asimmetrico questo, e quindi non so come possa reggere formalmente. Quindi lei, mi sembra che lei dica da questo punto di vista che non è solamente, insomma, un po' annacquata come modalità, ma è anche iniqua in sostanza. Iniqua, non lo so, ripeto, bisogna capire, però se l'idea era: vogliamo ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, e uno può anche dire: vogliamo abolire l'articolo 18, ma cancellarlo per una fattispecie e non per l'altra mi sembra, come ho detto prima, asimmetrico. Aggiungo una cosa, che è quello che io ho detto varie volte: io avrei trovato molto preferibile un comportamento che dicesse: c'è stata una riforma 2 anni fa, una riforma che in gran parte è stata disconosciuta, e vabbè, c'è una responsabilità qui di tanti, ma ciascuno si assume le sue. Però quella riforma c'è, 2 anni, andiamo a vedere quello che è capitato. Ora, io non ho una chiarissima evidenza di ciò che è capitato, però indirettamente viene fuori che il numero delle conciliazioni è fortemente cresciuto. E che non è strano, perché vuol dire che i lavoratori non hanno sempre voglia di andare a far causa, e siccome comunque la convenienza della causa con quella modifica si è fortemente ridotta per il lavoratore, vuol dire che l'incoraggiamento che c'era a trovare un accordo con il datore di lavoro in buona misura ha funzionato. E poi ci sono le altre fattispecie, sì. Quando il lavoratore va effettivamente dal giudice, sembra che questi 2 anni dimostrino: uno, che nel caso del licenziamento economico i casi di reintegrazione sono effettivamente molto pochi, sì. Molto pochi, vuol dire che anche qui il giudice dice: va bene, e vale l'indirizzo economico. Sì. Nel caso dei disciplinari invece la reintegrazione avviene in maniera più frequente. Se uno prende questo e mi dice: ecco, noi vediamo queste cose, siamo convinti che questo sia la dimostrazione che quella riforma non ha funzionato in questo, quest'altro aspetto, e vogliamo cambiarla per ovviare agli inconvenienti che si sono verificati, io avrei capito benissimo. Così come è stato impostato nuovamente la discussione sull'articolo 18, mi sembra squisitamente politico, squisitamente ideologico, cioè uno contro l'altro per questioni che hanno poco a che fare con il merito della questione. Fabrizio Forché, concordi? Concordo di più con la Fornero 1 che con la Fornero 2, cioè sulla prima parte del suo ragionamento quando ha parlato della riforma annunciata ieri da Renzi che sulla seconda parte. Io credo che il passo indietro di Renzi, che sicuramente c'è stato ieri in direzione, ieri era il momento della mediazione politica, per cui come dire è anche comprensibile che Renzi abbia giocato una partita diversa da quella che poi sarà la riforma che realmente vuole fare. Ieri serviva vincere la partita all'interno del suo partito e quindi c'è stata indubbiamente una retromarcia, c'è stata una retromarcia lì dove appunto rimane l'articolo 18 anche per i licenziamenti disciplinari. Cosa c'è che non va in questo? C'è quello che diceva la professoressa Fornero, c'è una complicazione, una discrezionalità al giudice, un sistema che continua a essere farraginoso e poco chiaro per l'imprenditore, cioè l'imprenditore quando va a utilizzare il licenziamento non sa alla fine il giudice come deciderà. Ora Renzi sottolinea che saranno fissate le fattispecie del licenziamento disciplinare in maniera molto specifica, in maniera molto limitata, ma noi sappiamo che poi quando dai discrezionalità al giudice in realtà in questo campo per l'imprenditore non c'è nessuna certezza. Quindi diciamo questo secondo me è il difetto di quello che ieri Renzi ha annunciato, se devo dirlo è anche il difetto della riforma che porta il nome del ministro Fornero. Io credo che come dire, la responsabilità dei difetti di quella riforma non sono attribuibili, o almeno non sono attribuibili interamente al ministro Fornero. Qui vorrei dire una parola molto chiara, l'ex ministro Fornero, la professoressa Fornero prende in questi anni la responsabilità di qualunque nefandezza legata alla riforma delle pensioni e alla riforma del mercato del lavoro. La riforma delle pensioni aveva molti meriti, ha un errore grave sugli esodati, non so quanto è responsabilità diretta da Fornero, quello è un errore vero, ma la riforma delle pensioni è anche una buona riforma. La riforma del mercato del lavoro ha molti difetti invece, al contrario di quella delle pensioni che ne ha pochi, ma la riforma del mercato del lavoro non ha funzionato, però secondo me non tanto per demerito della Fornero, ma per la necessità di mediare quella riforma con un Parlamento che andava in direzione molto contraria rispetto a quella della Fornero. Sconta Fabrizio gli stessi problemi che sta scontando Renzi in questo momento sostanzialmente. Differenza diciamo che Renzi è bene o male il segretario del suo partito, certo. Quindi anche se il partito su quello non lo segue, perché diciamoci la verità, sulla impostazione sul lavoro è molto diversa quella di Renzi rispetto anche alla maggioranza del suo partito. Ora non vediamo i numeri della direzione, come sappiamo è una direzione interamente controllata da Renzi, ma nel PD, nel partito, la verità è che la posizione che ha Renzi sul lavoro è assolutamente minoritaria, così come era minoritaria la posizione che avevano sul lavoro il Presidente del Consiglio Monti e il ministro Fornero rispetto alla maggioranza parlamentare che avevano. Certo. E quindi alla fine quella riforma uscì zoppa perché fu mediata e anche l'intervento sul 18 alla fine è uscito troppo complicato, troppo complesso, non ha risolto in realtà i problemi che c'erano legati all'articolo 18. Allora, noi abbiamo il traffico e poi qualche risposta agli SMS, perché come dicevi tu Fabrizio, poi l'ex ministra Fornero e Mario Monti portano il peso di determinate scelte che non sono piaciute, però stanno arrivando parecchi SMS su questo, però c'è secondo me una nota da fare prima di andare sul traffico e che in parte hai ricordato anche tu. Voi ricordatevi sempre che quelle riforme sono state approvate da tutto quello che una volta si chiamava l'arco costituzionale, quindi prendetevela se volete anche con i ministri dell'epoca, però ripensate un attimo anche a chi era in Parlamento, perché siamo ancora in una democrazia parlamentare, quindi il governo fa un decreto legge ma poi quello passa al Parlamento e c'è gente che lo vota. E non ha torto l'ascoltatore che ci scrive: ma che senso ha dire non so quale sarà la decisione del giudice, il diritto a questa peculiarità? Non ha torto, ma in realtà ha torto, perché Lei tenga presente, pensi solamente a quello che è avvenuto l'altro giorno nel Salernitano, dove una persona da ubriaca ha investito e ucciso quattro persone. Il PM ha contestato l'omicidio volontario, altri PM avrebbero contestato l'omicidio colposo. Alcuni giudici daranno l'omicidio volontario, altri daranno l'omicidio colposo. Lei capisce che, riflettuto questo nella normativa del lavoro, riflettuto questa questione, questa incertezza, come dire, nell'interpretazione di determinate norme, fa sì che un investitore che deve venire anche in Italia arriva e non si sa orientare. Come mi muovo da questo momento in avanti, considerata poi la durata dei processi? Allora, professoressa Fornero, insomma, ha sentito anche qualche critica a Fabrizio Forché che su come avevate riformulato voi l'articolo 18. Beh, prima sembrava una impresa impossibile. Poi è vero quello che diceva, ma noi siamo in una democrazia e una democrazia implica che non sia una persona, neanche un presidente del Consiglio così forte, così energico, così dinamico come Renzi, decide tutto da solo, tant'è vero che spesso le sue idee sembrano già realizzate, ma poi quando entrano nel processo decisionale ci mettono il tempo che ci mettono con presidenti del Consiglio magari meno giovani e meno energici. Il punto però è importante, è che cambiare alcuni meccanismi obsoleti e ingiusti io ritengo sia una necessità. Sì, però il punto era proprio sul passaggio dal giudice, cioè il rischio che il passaggio dal giudice scoraggi l'investimento. Guardi, io posso dirle una cosa, che trovo abbastanza singolare che si voglia cambiare un'importante norma perché non si ha fiducia nei giudici. Perché è questa? Guardi, proprio il presidente di Confindustria mi disse una volta, da ministro, mi disse: beh, ministro, lei ha fatto una buona riforma, e disse così, peccato che sia stata pensata per dei giudici tedeschi. E io ho detto: presidente, noi non avremo i giudici tedeschi, ma non abbiamo neanche gli imprenditori tedeschi e non abbiamo neanche il sindacato tedesco. In altre parole, noi siamo italiani. Che cosa vuol dire questo? Che noi prendiamo le norme meno sul serio, perché quelle norme lì, e non si dica che la reintegrazione non c'è in Germania, perché in Germania l'applicazione delle norme è molto diversa da come da noi. In Germania c'è meno ricorso alle cause, cioè un lavoratore, e noi con la conciliazione obbligatoria abbiamo cercato proprio di ridurre il numero delle cause, cercato di dire ci sono situazioni nelle quali purtroppo un datore di lavoro deve licenziare, ma il lavoratore lo capisce questo, capisce che se è in buona fede perché deve andare dal giudice. Questo bisogna promuovere, questa cultura della buona fede. A chiudere, Fabrizio Forché, devo dire, in realtà la buona fede gli imprenditori ce la mettono quasi sempre. Comunque, Fabrizio, prego. In attesa appunto di promuovere la cultura della buona fede dobbiamo anche introdurre delle regole che siano applicabili e rendano comunque possibile fare impresa e creare posti di lavoro in questo paese. Tra quello che noi non abbiamo rispetto agli altri paesi europei e la Germania c'è sicuramente una classe politica dei governi e dei parlamenti che quando intervengono sulle leggi lo fanno con la chiarezza di introdurre delle novità chiare ed efficaci per garantire alle imprese la possibilità di investire, per permettere ai lavoratori di lavorare in maniera equa e non con delle disparità enormi tra i singoli lavoratori. Quindi io credo che c'è una forte responsabilità nella politica, nel modo in cui ha legiferato negli ultimi anni su queste materie, e ha creato sicuramente un sistema di regole che oggi disincentiva in Italia gli investimenti. Il problema cruciale è quello, non è l'articolo 18, è che se noi non mettiamo delle regole che permettono alle imprese internazionali e italiane di investire, non si creeranno mai posti di lavoro, e per investire servono regole chiare ed efficaci. Grazie, grazie a Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore, grazie ad Elsa Fornero, è una professoressa, l'ex ministro del welfare, docente di economia politica all'Università di Torino. Un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, grazie anche a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in redazione, Gianmarco Ferronato in regia per oggi. Focus Economia torna domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.